quel che fa il vecchio è sempre giusto. C'era una volta una vecchia fattoria in campagna. Aveva il tetto di paglia con tutti i tipi di piante che crescevano su di esso. All'interno viveva una vecchia coppia di contadini. Erano molto poveri. L'unica fonte di sostentamento era il loro cavallo. La coppia prestava il proprio cavallo ai commercianti e in cambio riceveva cereali e vestiti. La coppia non aveva mai chiesto di più. Erano felici di ciò che ricevevano. Oh, tesoro, c'è un grosso buco nel tetto. Oh, oh, ma guarda il lato positivo. Le finestre di casa nostra sono tutte arrugginite e bloccate. Con il grande buco nel tetto avremo luce e aria, senza dover riparare le finestre. Hai ragione. Ma per quanto riguarda l'inverno e la pioggia? Dovremmo trovare un modo per guadagnare qualcosa. Ah, lo so. C'è una fiera oggi al mercato. Perché non vendi questo cavallo? Dovremmo ottenere una buona somma. 5 monete d'argento, forse? O anche 7? Forse. Spero di ottenere così tanto. Ah, oh, ne sono certa. Quello che fa il mio vecchio è sempre giusto. Mua! Il vecchio partì con il suo cavallo. Sulla strada per la fiera, arrivò alla casa di un lattaio. Latte! Wow! Questo è un sacco di latte! Sì, forse. Non sembri troppo felice. Oh, e come lo sai? Hai un grande cavallo. Vorrei averne uno anch'io. Beh, se avere questo cavallo può renderti felice, allora perché non facciamo uno scambio? Scambio? Intendi dire cambiare la mia mucca per il tuo cavallo? Sì, perché no? Sarei felice di avere una mucca. Va bene allora, grazie mille. Felice dello scambio, il vecchio camminò allegramente verso la fiera. Mentre stava nella lunga fila per entrare nel cancello... Ciao, Harry! Ciao! Perché quel muso lungo, amico mio? Ricordi la mucca sana che avevo? Mia moglie mi ha chiesto di scambiarla con qualcosa di meglio e di più utile. Pensavo, cosa meglio di una pecora? Ehi, non ha fatto per niente piacere. Mi ha mandato indietro per scambiare questa pecora con qualcosa di meglio. Non so se otterrò un accordo migliore. Tutto qui? Sei fortunato, amico mio. Ho appena scambiato il mio cavallo per una mucca. E ora che ci penso, mia moglie vorrebbe avere una pecora. La lana ci terrà caldi in inverno. Ti piacerebbe scambiare la tua pecora con la mia mucca? Una pecora per una mucca? Sei sicuro? Oh, sì, assolutamente! E lo scambio venne fatto. Il vecchio continuava a pensare a quanto sarebbe stata felice sua moglie. Harry ha ragione! Cosa c'è di meglio di una pecora? Cosa hanno in testa? Tutto ciò che volevo era una dozzina di mele. Da quando non sono sufficienti 3 uova? Qua, qua. Signora, sta bene? Ah, buona grazia. Non riesco a riprendere fiato oggi. Per prima cosa sono stata turbata dal gracchiare di un corvo, poi dal muggito di una mucca, poi dal trottare del cavallo, poi dal qua qua dell'oca e ora dalle grida di un vecchio. Cosa vuoi da me? Oh, non volevo urlare. Aspetta. Ho urlato? Io voglio dire che sembri una donna così meravigliosa e perché qualcuno dovrebbe urlarti contro? Mi scuso se l'ho fatto, ma se posso, come mai sei così infelice? La mia oca ha deposto 3 uova oggi, quindi 1 più di 2. 1, 2, 3. E tutto ciò che volevo in cambio erano una dozzina di mele. e dicono che non sono abbastanza. Da quando non sono sufficienti 3 uova? Oh, quest'oca ha deposto 3 uova oggi? Oh, è meraviglioso! Chiunque sarebbe fortunato ad avere quell'oca. Ah, lo so. Adesso però sono stufa di parlare con te. Addio! Aspetta! Una pecora ti renderebbe felice? Posso scambiare la mia pecora con la tua oca? Pecora? Per l'oca? Sì, certo! Come ti permetti di prendermi in giro? Non sono dell'umore per queste assurdità! No, non ho intenzione di prendermi gioco di te! A mia moglie piacerebbe avere quest'oca! Per favore, almeno pensaci! È così? Questo è uno strano affare, ma va bene. Se vuoi così tanto l'oca, prenderò la tua pecora e ti darò la mia oca. Lo scambio venne fatto. Sebbene il vecchio avesse perso la sua pecora, sembrava comunque più felice della donna urlante. Quando divenne buio, il vecchio decise di tornare a casa. Sulla sua strada vide un uomo parlare con un uccello ed era molto scortese. Cosa devo fare perché tu mi dia un uovo? Sono anni che stai con me e ancora non un solo uovo. Cocco te. Oh, questo uccello capirà cosa stai dicendo? Molto divertente, signore. Posso parlare a questo bellissimo uccello? Cosa? Trovi bello questo pollo? Devi avere dei problemi nella tua vita. I problemi sono solo problemi se pensi che siano problemi. Giusto, cosa vuoi? Sembra che questo uccello ti stia turbando. Un'oca potrebbe renderti felice? Posso scambiare la mia oca con il tuo uccello? Cosa? Quell'oca per questo magro pollo? Sei sicuro? Oh, assolutamente! Mia moglie mi ha chiesto di fare un acquisto utile oggi. Tua moglie lo troverà utile? Certo! Lei mi bacerà la fronte e dirà: quello che fa il mio vecchio è sempre giusto! Ah, bene! Chi sono io per dire di no allora? Il vecchio prese il suo nuovo uccello e tornò a casa. Farei meglio a comportarti bene! Non mi piace urlare! Ho fame! La sua cioccolata calda ha 6 marshmallow e la mia ne ha 5. Non è giusto. Ma, signore, avevamo solo questi marshmallow. Questo non è un mio problema. Posso aiutarvi? Ora ne avete entrambi 5 ciascuno. Giusto, ha risolto il nostro problema. Cosa ci fai lì, Dave? Alzati e pulisci questo disastro. È colpa tua. Guarda me e guarda le dimensioni di questo sacco. Non dovrei trascinarlo fuori. Questo sacco dovrebbe trascinare me. Andiamo ora, stupido sacco. Oh, cos'hai in quel sacco lì? Mele marce. Devo buttarle. Mi sono appena ricordato. Avevo un bellissimo albero di mele una volta. È appassito poi. Ciò che ne rimase fu solo una mela marcia. Mia moglie ce l'ha ancora. Mi chiedo quanto sarebbe felice se le portassi l'intero sacco di mele marce. Lascia che lo prenda io. Puoi avere il mio pollo in cambio. Cosa hai appena detto? Vuoi barattare il tuo pollo per questo sacco di mele marce? Beh, certo! Questo è tutto ciò che ho da offrire! Tua moglie sarà felice di questo? Assolutamente! lei mi bacerà la fronte e dirà: quello che fa il mio vecchio è sempre giusto. Questa è la cosa più divertente che ho sentito oggi. Ascolta, vecchio, dovresti invece vendere questo pollo per un po' di soldi. Un sacco di mele marce non ti porterà fortuna o felicità, ma i soldi certamente lo faranno. Oh, ma sembra che tu abbia un sacco di soldi, eppure eri infelice per un marshmallow. Mangiare quel marshmallow extra non mi è costato nulla, eppure ti ha reso felice. Non vedo come i soldi possano portare o dare felicità, ma questo sacco di mele marce certamente può farlo. È impossibile, non ti credo. Bene, facciamo una scommessa. Oh, una scommessa? Oh, dai! Una scommessa? Uno punta su una cosa e poi scommetti sulla cosa opposta e poi perdi se diventa vero il contrario e poi paghi se il contrario dell'opposto su cui hai scommesso si avvera e poi... Oh, come riesci sempre a complicare tutto, Harry? È semplice. Sono pronto a scommettere 100 pezzi d'oro. Noi verremo a casa tua. E tu racconterai tutto a tua moglie di fronte a noi. E se lei ti bacerà sulla fronte e dirà: quello che fa il mio vecchio è sempre giusto? Allora ti pagheremo 100 pezzi d'oro. Ma io non avrei niente da darti. Non mi interessa, perché non abbiamo possibilità di perdere. Ma non sarà una buona scommessa se io non avrò nulla da darti in cambio. Oh, ho capito. Se perdo, puoi avere questo sacco di mele marce. Affare fatto. Affare fatto. Il marito tornò a casa con i due inglesi. Sua moglie invitò felicemente gli ospiti dentro. Com'è andata la giornata, tesoro? Oh, strana. Sono andata a chiedere alcune erbe alla signora Eriksen. Lei ha riso di me e mi ha detto: non ho nemmeno una mela marcia da darti. Puoi crederci? Ha così tanti soldi eppure non ha nemmeno una mela marcia. Hai venduto il cavallo? Cosa c'è nel sacco? Oh, ci sono riuscito. Ho scambiato il nostro cavallo per una mucca. Oh, tesoro, perché la povera mucca è nel sacco? Oh, no. Non ho più la mucca. L'ho scambiata per una pecora. Oh, che bello. La sua lana ci terrà caldi in inverno. Ma come fa a respirare nel sacco? No. Non ho la pecora. L'ho scambiata per un'oca. Un'oca? Ancora meglio. Posso chiedere ai vicini di darci del cibo e... Non serve. Ho scambiato l'oca per un pollo. Oh, pensi proprio a tutto? Ora possiamo avere uova, ma nessun animale deve rimanere nel sacco. Lasciami... No, tesoro. Ho scambiato il pollo per un sacco pieno di mele marce. Gli inglesi erano pronti a ridere del vecchio. Sapevano che sua moglie sarebbe stata molto arrabbiata con lui. Un sacco pieno di mele marce? Ti sei ricordato del vecchio melo, vero? Ti sei ricordato di come ho pianto quando è appassito e come ho apprezzato l'ultima mela marcia che ci ha lasciato? Oh. Oh, lo farò vedere alla signora Eriksen. Non aveva nemmeno una mela marcia e io ne ho un sacco pieno. Chi è ricco ora? Oh, amore. Lo sapevo. Quello che fa il mio vecchio è sempre giusto. Gli inglesi mantennero la parola. Consegnarono 100 monete d'oro alla coppia di contadini e li salutarono. Povera coppia, hanno perso un cavallo, una mucca, una pecora, un'oca e un uccello, tutto in un giorno. Allora non hai imparato niente oggi, Harry? La vecchia coppia di contadini è molto saggia. Ci hanno insegnato una lezione molto importante. Vedi, il loro cavallo non c'è più. Così come la mucca, la pecora, l'oca e l'uccello. Ma loro non piangono sul latte versato. Mi hanno insegnato ad essere felici di ciò che abbiamo. Non è questa la chiave per una buona vita? Oh, è semplice. Una chiave può aprire un lucchetto, ma cos'è una chiave senza lucchetto? Quindi, una volta trovato il lucchetto creato per la chiave che hai in mano, puoi aprire il lucchetto della tua bella vita, quindi dovrai prima trovare il lucchetto. Oh, sei una vera gemma, amico. Una vera gemma. Ricordami di non farti mai più una domanda, ok? Oh, ma cosa succede se dimentico di ricordartelo? Devi ricordare di ricordarmi di ricordartelo. Oh, ma mi hai appena chiesto di ricordartelo perché dovresti non ricordartelo da solo, quindi dovrei ricordarti di ricordarmi di ricordarti di ricordarmi di non farmi più domande. Boh! E così la coppia di contadini visse una vita felice. Perché quello che fa il vecchio è sempre giusto.